Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, meno 4 agli europei, meno 6 al debutto azzurro contro la Spagna. L'Italia gioca domenica ad Anzica contro i campioni d'Europa e del mondo in carica, poi il 14 e il 18 a Poznan, sempre in Polonia, contro Croazia e Irlanda. Se passa il girone, e sottolineo se, storica canzone, magnifica tra l'altro, va a giocare in Ucraina, se poi vincesse il quarto tornerebbe in Polonia a giocare la semifinale, ma la finale la giocherebbe comunque a Kiev. E quindi, visto come stanno andando le cose, proviamo a fare un atto di fede, un esorcismo, e a chiedere un ritratto dell'Ucraina in generale, di Kiev in particolare, a chi queste località le conosce molto bene. Vincenzo Pincolini, buongiorno. Buongiorno Gigi, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Caro Vincenzo, dunque, tu sei al Dinamo Kiev dal 2010, giusto? Sì, sono tornato nel 2010 e c'ero già stato dal 2007 al 2009. Al 2009, e quindi insomma ormai l'esperienza è lunga. È una seconda casa. Credo anch'io. Senti, io però partirei dalla tua prima casa, perché adesso sei in vacanza nelle tue terre parmigiane, che sì, fortunatamente non sono martoriate come quelle appena più a sud. È incredibile. Perché in linea d'aria non siamo molto distanti, Gigi, sarà in linea d'aria, saranno 70-80 chilometri, certo. Però tutte le vibrazioni qua si sentono, ma pochissimo, vanno verso Veneto, verso nord in pratica, ecco, questo sì, ci ha reso in una posizione fortunata sicuramente. Sì, il che non vi impedisce, immagino, di vivere con un collegamento particolarmente intenso, no? Quello che sta accadendo. Chiaramente l'Emilia, poi tu un po' la conosci, l'Emilia Romagna si mobilita in tutti i supermercati, ci sono raccolte di cose, le varie organizzazioni di volontariato sono già partite, insomma poi c'è tutti i bollettini, adesso anche tant'anni delle TV private che prendiamo, chiaramente le TV private di quella zona, e c'è... si spera sempre che finiscano. I danni più grossi sicuramente, come tutti hanno sottolineato, sono per l'economia, ma io sono anche sicuro che l'economia, soprattutto qua in Emilia, cercherà di ripartire prestissimo e sarà una secondo Friuli sicuramente. Questo è un grande augurio. Ne approfitto per ricordare che oggi alle 15, subito dopo questo appuntamento che è in corso, ci sarà uno speciale nella giornata di lutto nazionale per il terremoto, condotto da Raffaella Calandra, che andrà avanti per un'ora. Vincenzo, l'Ucraina è vicina, potrebbe essere uno slogan, no? Vista anche la rima. No, ma l'Ucraina è anche veramente vicina. Ecco, spiegaci perché. Quando parti da Malpensa, si stacca l'aereo, in meno di 2 ore sei atterrato a Kiev. Quindi, per dire, un po' come tutte le cose che riguardano, io me ne rendo conto strada facendo, tutto quello che riguarda la vecchia Soviet Union sembra lontanissima, ma è poco più distante di Palermo. È vero, poi geograficamente proprio così. Senti, noi dell'Ucraina sappiamo abbastanza poco, i rimbalzi più significativi e anche più uno drammatico che sono arrivati in Italia riguardano A. la Timoshenko, B. questa persecuzione dei cani randagi, di cui molto, molto si è parlato. Ci aiuti a inquadrare da questo punto di vista, perché stiamo parlando di un preparatore atletico, ma stiamo parlando di una persona che vive, che tra l'altro mi piace molto vivere per dire completamente le zone dove sono, che sono zone tra l'altro che hanno anche tante tante peculiarità positive. Il problema Timoshenko è il problema un po' di una nazione che sicuramente non è ancora attrezzata per una democrazia piena, sì, e una nazione che un po', come capitava in Italia qualche anno fa, è divisa al 50% a favore della Timoshenko, al 50% a favore di questo Yanukovych attualmente, che poi non sono altro che, con la Timoshenko, diciamo così, da Kiev verso nord, gli ucraini veri, mentre con Yanukovych da Kiev verso sud un po' quell'Ucraina che era diventata molto di più filorussa, che sì, comprende, per dire, Donetsk, che comprende Kharkov. Sì. È proprio il 50% che prende in mano la situazione, chiaramente sfrutta il suo potere anche in un modo un po' forte, e questo chiaramente è proprio la spia di come la democrazia sia agli albori. Certo, sia ancora così fragile. Senti, la vicenda dei cani, che in Italia ha avuto una grandissima eco, certo. Non so, io sono un po' in imbarazzo. Guarda, è difficilissimo, parliamo fra persone intelligenti e non fra persone ideologiche, diciamo così. A Kiev questa pulizia, soprattutto del centro di Kiev, da tutti questi gruppi di cani randagi è stata presa con grande soddisfazione, come tante cose che sono arrivate per gli europei, ci sono tanti snodi, per dire, stradali che sono migliorati, l'aeroporto è stato rifatto completamente, insomma il centro è stato ripulito. È chiaro che si può cambiare, come già forse dissi parlando di Mosca, è facile cambiare la capitale, una città, per dire, è difficile cambiare tutta una nazione in poco tempo. Certo. Però per dire, una, sicuramente il numero di cani che giravano in branchi, devo dire, non ho mai visto un cane cattivo, è arrabbiato, molto pacificamente, molto tranquillamente, ma potevi vedere la piazza principale, per dire, che poi è la piazza della rivoluzione, Maidan è anche molto famosa per la rivoluzione arancione, e potevano transitare gruppi di 10, 12, 14 cani, e questo chiaramente come secondo me era impensabile poter trovare tantissimi posti in canili per tutti questi cani, che il numero, solo se ci sei stato, potresti rendertene conto. Potrebbe darti un'idea. Senti, arriviamo, in attesa di un intervallo che ci aspetta tra poco, arriviamo alla tua esperienza professionale. Tra la prima e la seconda a Kiev sei stato a Mosca. All'Lokomotiv a Mosca. Dove hai lavorato meglio? Guarda, diciamo che a Mosca ci sono probabilmente, c'è più potenziale, ci sono più mezzi. In Ucraina c'è più qualità, c'è più cultura di calcio, sì. Anche se chiaramente è una cultura di calcio, per dire, che è un pochino adesso frenata da questa grande crisi che è sia economica che politica, e le due cose per forza è difficile che vadano ognuno per i fatti suoi. Per i fatti loro. In Ucraina ci sono sicuramente, c'è un potenziale di giovani che, se trovasse una rete organizzata di allenatori, di squadre che in grado di fare il settore giovanile in un certo modo, potrebbero veramente arrivare a risultati importanti. Io in Ucraina ho visto tanti talenti, in Russia ho visto tanti giocatori, che per tanti ragazzi giovani che facevano calcio, e di talenti ne ho visti meno. Pochi. Un'altra piaga veramente importante che fa perdere tanti talenti è l'alcolismo, che anche questo, se non ci si sta, se non ci si vive un attimo, si fa fatica a pensare quanto sia pesante. Cioè questa piaga è diffusa anche a livello giovanile, quindi ci stai dicendo. Adesso diciamo che le ultime generazioni sono miglioratissime, sì. Ma per dire, io quando sono arrivato l'impatto nel 2007 con un giocatore che avevano 25-26 anni, che adesso ne hanno 30-31, per dire, è stato un impatto durissimo. Diciamo che i ragazzi giovani da 18-19-20 anni, per dire, i ragazzi di quell'età somigliano totalmente ai nostri, perché vestono uguale, ascoltano la stessa musica, sì. Guardano gli stessi computer, per dire, veramente, diciamo che quel tipo di globalizzazione sicuramente a loro ha fatto molto bene, ecco. Vincenzo Vincolini in pochi minuti ci ha messo al corrente di un sacco di cose che solo vivendo in Ucraina, tra l'altro con il raffronto che gli è possibile, vista la sua esperienza moscovita, quel raffronto anche con la Russia, che insomma lo rende ancora più attendibile e più interessante. Parliamo sempre di esperienza professionale tua, cioè la preparazione atletica e comunque il lavoro scientifico all'interno di una squadra. Come sono rapportabili all'Italia queste due esperienze? Guarda, io dico che per certi versi, ad esempio, ci sono dei dati clamorosi, se guardiamo il numero ad esempio di infortuni sia in Russia che in Ucraina, sono dati totalmente diversi dai nostri in Italia. Sicuramente c'è il discorso che in questi paesi si gioca un po' meno, ma non tanto di meno, sì. Però c'è dall'altra parte ancora il vantaggio di poter fare le famose preparazioni abbastanza lunghe d'inverno, per cui, per dire, una squadra arriva ad incominciare la stagione con 2 mesi di ritiro precampionato, ecco, di allenamento precampionato, quello che in Italia è totalmente sparito, e questo chiaramente consente di lavorare su delle quote di allenamento nettamente superiori, e soprattutto i giovani hanno ancora una vita che è molto legata al movimento. perché non dobbiamo dimenticare che il calciatore non cresce solo, parliamo di 10, 11, 12, 13, 14 anni, non cresce certo solo nelle 4, 5 o 6 ore di allenamento settimanali, ma cresce attraverso uno stile di vita che ormai da noi, e non solo in Italia, ma un po' nell'Europa occidentale, per dire, lo stile di vita sempre più va verso la sedentarietà. Certo. Per cui questo è ancora un dato che sicuramente fa la differenza, e vedo ad esempio anche la crescita di nazionali giovanili in paesi come la Polonia, dove ancora appunto questo stile di vita privilegia il movimento, gli sport e l'attività all'aperto, anche se come altra faccia della medaglia c'è gli inverni lunghi. Proviamo a fare un altro parallelo tra Italia e Ucraina. Se tu stessi parlando a una radio ucraina in questo momento, ci sono 5-6 messaggi che sono appena arrivati, te ne scelgo uno, firmato Duilio. Bravi, bel messaggio, è questo il vostro livello di civiltà, è giusto massacrare i cani per la pulizia del calcio. Ecco, in Ucraina ti capiterebbe di aver detto quello che hai detto e di sentire trarre queste conclusioni? Domando. No, probabilmente sui cani no, perché è visto proprio come un problema. È un po', guarda, io parlavo con degli amici recentemente, 2 o 3 giorni fa, Gigi. È un po' come il problema dei rifiuti, che è un problema da risolvere in qualche modo, ma nessuno li vuole vicino a casa sua, no? Parliamo iperbolicamente adesso, poi che anche qua nella nostra zona ci sono state la prima vittoria di un sindaco di Grillo contro il termovalorizzatore, cioè, però alla fine in Italia purtroppo siamo arrivati al punto che chiacchieriamo molto dei problemi e non ci si arriva mai in fondo. È chiaro che per il futuro non potrà essere una via da seguire sempre, però per iniziare probabilmente può darsi che sia necessario anche pensare un po' di più ai diritti umani e un attimo di meno ai diritti di altri animali, ecco. Caro Vincenzo, senti, siamo a fine stagione, come sempre alla vigilia di europei o di mondiali. Gli europei, a differenza dei mondiali, si sono risolti spesso con delle sorprese, no? La Danimarca, la Grecia, la stessa Cecoslovacchia nel 76. Ieri sera per caso ho rivisto su ESPN la finale Danimarca-Germania di 20 anni fa, con una strepitosa Danimarca da un punto di vista atletico, la Danimarca che fino a 3 settimane prima era in vacanza perché non mai si pensava che sarebbe stata esclusa la Jugoslavia, poi per ragioni di guerra. Esiste ancora, cioè è ovvio che esiste la razionalità di una preparazione e tutto, ma a fine stagione non può accadere anche che invece ogni tanto qualcosa di estemporaneo possa funzionare? Io penso assolutamente di sì. Ad esempio arriviamo in fondo con un carico di stanchezze fisiche, ma soprattutto secondo me mentali, Gigi, perché per dire la stanchezza fisica basterebbe veramente riposare, invece abbiamo code per dire di stress, perché questo calcio è diventato sempre più di stress, che probabilmente in gruppi dove casomai c'è meno pressione perché non si deve vincere a tutti i costi eccetera, questa differenza può fare la differenza, può dare dei vantaggi, anche se penso che però ci siano 3-4 squadre che sono troppo più forti delle altre e sicuramente in grado di evitare che salti fuori una Danimarca della situazione o una Repubblica Ceca, ecco. Cioè tu dici che tra Germania, Spagna, Olanda è difficile quest'anno che ci sia margine per l'outsider. Esatto. Ci metto anche una Francia che sta crescendo molto secondo me, io ho visto Spettoni, ho seguito un po' per dire con grande simpatia per dire il lavoro di Blanc, e secondo me anche la Francia sta ritornando su dei bei livelli. A differenza di? Ma a differenza, sai, noi come al solito partiamo in mezzo ai problemi, però arriviamo sempre in fondo bene, ecco, quindi quello lì è un po' il nostro DNA, ecco. Mentre io non credo che squadra, ad esempio la Russia, io un po' qualche giocatore lo conosco, anche se ha fatto molto bene con noi, non credo che possa rappresentare una sorpresa. Però se non altro i giocatori russi sicuramente arrivano con meno stanchezza da una parte e dall'altra, perché il campionato era già stato deciso a favore della squadra di Spalletti, perché per dire non hanno avuto code di coppe, quindi da quel punto di vista lì anche la Russia potrebbe essere una squadra in grado di approfittare di quel tipo di approccio, però per dire con un tasso tecnico distante dalle prime. Certo. Senti, io chiuderei con le squadre di casa, perché tradizionalmente in qualunque manifestazione bisogna farci i conti, un po' perché si giocano evidentemente qualcosa di più, no? Certo. Se va avanti al loro pubblico, un po' perché possono essere oggettivamente squadre forti. Tu hai anche fatto parte per qualche partita dello staff della nazionale ucraina. Certo. E allora, Ucraina e Polonia come le collochiamo? Ma sai, l'Ucraina c'ha dalla sua un girone difficilissimo. La prima partita con la Svezia, per dire, è chiaro che è già dentro o fuori, perché non vincendo contro la Svezia, e non è poi così facile, per dire, dopo farebbe sì di trovare sulla strada, per dire, la Francia e l'Inghilterra, contro le quali, insomma, fare bottino pieno sicuramente sarebbe difficile. L'Ucraina non so valutare determinate cose: uno, l'impatto proprio del pubblico a spingere questa squadra; due, la condizione dei due o tre giocatori più importanti. Io ho avuto Shevchenko gli ultimi mesi con problemi, aveva trovato una discreta condizione proprio le ultime due settimane, quindi potrebbe anche essere cresciuto, e ti assicuro che parlando sei mesi fa ti avrei parlato di un Shevchenko in grande condizione. Poi si è rotto lo zigomo, è stato fermo un mese e mezzo, e questo l'ha portato lontano da quella condizione che secondo me lui stava curando per finire alla grande con la sua nazionale. Queste due o tre cose secondo me fanno sì che il punto interrogativo sia ancora più grosso. Però chiaramente giocando in casa qualche cosa devi tirare fuori, perché non ti puoi permettere di perdere tre partite, ecco. Anche se la Svezia di Ibrahimovic chiaramente non è poi un materasso. La Polonia, in un girone più equilibrato, ha giocatori che vengono anche da campionati come la Bundesliga, quindi abbastanza concreti, e non ne so valutare veramente l'impatto. Però io penso che anche in tutti i gironi, per dire, ci potranno essere delle novità, ecco. Sarà sicuramente un europeo, da europeo molto tattico, soprattutto nelle prime partite, ma sicuramente sarà e speriamo che sia, ecco, bello. Speriamolo tutti insieme. Vincenzo, certo. grazie per questo tuo intervento. Ci sentiamo. Un saluto a tutti, allora Gigi, e buoni campionati europei a tutti. Dai. Buoni europei da Vincenzo Pincolini, che ringrazio in modo particolare. Siete indecenti, scrive Nicoletta. Per voi il calcio è un diritto umano? È giusto massacrare altri animali per un gioco di pallone? Siete proprio inqualificabili. Nicoletta, c'è la registrazione a disposizione, se lei va sul sito Radio 24, in podcast ascolterà quando crede la registrazione di quello che ci ha raccontato, chi mi ha raccontato Vincenzo Pincolini, e il modo in cui io ho interloquito con lui. Se lei ricava che noi abbiamo sia pure vagamente o lontanamente sostenuto che il calcio è un diritto umano e che quindi per questo è giusto massacrare altri animali, allora avrà vinto, anzi avrà stravinto lei Nel frattempo io, insomma, continuo a suggerire a chiunque, come dire, non solo parli o scriva, ma ascolti anche a tesi, continuo sempre a provare a suggerire di prestare maggiore attenzione prima di interloquire, se non altro. Cosa sentiamo adesso? Io sentirei, in attesa poi dei vostri interventi in diretta, io sentirei un intervento molto interessante di Francesco Rocca. Francesco Rocca, che oggi è un osservatore del Club Italia, è tecnico dell'Under 15, è stato in passato un grande sfortunato giocatore, sfortunato perché nel bel mezzo della carriera romanista e azzurra era il motore della fascia sinistra italiana. Kawasaki lo chiamavano per le sue straordinarie accelerazioni. Francesco Rocca è sempre stato uno con le idee chiare e con le parole altrettanto chiare. Sentiamo che cosa dice a proposito di patteggiamenti calcistici, per esempio. Ma ne sta uscendo un calcio purtroppo devastato dalla situazione incredibile, inverosimile che si è creata. Io credo che non ci debba essere spazio per questa gente, e nemmeno un patteggiamento, perché c'è gente che ha creduto in quei valori e che, come me, purtroppo gli ha lasciato anche la salute. E siccome noi siamo e dobbiamo essere un esempio per i giovani, per lasciare un'eredità a quelli che credono nei valori dello sport e soprattutto nel calcio, è doveroso che questa gente non rimanga nel calcio, e quindi per me vada radiata. credo che sia difficile non essere d'accordo con Francesco Rocca, che poi è intervenuto anche su altri argomenti. Insomma, questo mi sembrava la frase il più pregnante di una sua lunga dichiarazione radiofonica di stamane su Radio 1. Intanto vi ricordo che tra mezz'ora, no, meno ormai di mezz'ora, subito dopo il giornale radio delle 15 andrà in onda uno speciale condotto da Raffaella Calandra sulla giornata di lutto nazionale per il terremoto. Poi ripartirei da forse qualche notizia della tarda serata di ieri o della notte, tipo la sconfitta del Brasile in amichevole con il Messico, 2 gol, uno di Giovanni Dos Santos e uno di Hernandez, detto il Cicerito, insomma quello che gioca nel Manchester United, risultato nettamente a sorpresa con un infortunio tra l'altro a Thiago Silva. Quello però che ci interessa più da vicino è il risultato di Spagna-Cina, l'ultima amichevole giocata dai nostri rivali domenica prossima, che hanno battuto i cinesi per 1-0 a Siviglia con un gol di David Silva nel finale. Da notare che la Cina è allenata da Camacho, quindi da una vecchia gloria del calcio madridista e spagnolo in generale, è stato anche il CT della Spagna. Camacho ha deciso David Silva su una grande giocata di Iniesta 5 minuti dalla fine, ma certamente la Spagna non ha brillato. Poi da non brillare a prenderne 3 dalla Russia magari c'è un po' di differenza, ma va tenuto conto anche del valore dell'avversario. Fabrizio ha chiamato da Ancona, buongiorno. Buongiorno, senta, vorrei intervenire su Buffon. Sì. All'indomani della partita Juventus-Lecce, nella trasmissione alcuni ascoltatori avevano posto il dubbio che Buffon potesse aver fatto quell'errore perché aveva fatto le scommesse, così qualcuno aveva avanzato questa ipotesi assurda e tutti, lei in primis, dicevano che questa era un'affermazione non credibile, delirante. Però alla luce di quanto è emerso in questi giorni, cioè che Buffon ha fatto delle scommesse per 1,5 milioni di euro, la mano sul fuoco su nessuno penso si possa mettere, perché uno che ha la mano sul fuoco sulle persone è un conto, la mano sul fuoco dell'errore con Lecce sì. Cioè io continuo a ritenere delirante quella tesi, anzi lo considero anch'io, però pensare che una persona possa non essere capace di fare anche le cose più meschine, secondo me bisognerebbe pensarci un attimo. Non mi riferisco a quel caso, mi riferisco al personaggio Buffon in generale. Però secondo me è un bravo ragazzo, una bravissima persona. Vabbè, però non è che possiamo metterci a fare qua il ritratto di Buffon oppure l'ampio dibattito se Buffon sia o meno un bravo ragazzo. Buffon è sicuramente un grande portiere. Che la mia idea è questa, che possa avere magari anche più vizi di quelli che si possono immaginare, è possibile, forse anche probabile, e sono problemi suoi, fino a che non attengono ad una sfera penale. Che si possa abbinare quello che si è sentito eletto nei giorni scorsi alla gaffa, alla papera di Juventus Lecce, io non lo considero delirante come dissi un mese fa, lo considero più delirante ancora di allora. Un'ultima ora che ci interessa molto da vicino, Olic, il croato Olic non può riprendere, cioè non riesce a guarire da questo infortunio alla coscia che ha accusato nell'ultima amichevole e salta quindi Euro 12. Al suo posto è stato convocato Kalinic, che gioca in Ucraina, a proposito, nel Dniepro, 10 gol in 19 partite quest'anno, quindi un sostituto di tutto rispetto. Olic è quel piccolino stortignaccolo, lo avrebbe definito l'immenso Gianni Brera, perché in effetti è stortignaccolo, dà quell'impressione, ed era uno che il fiuto del gol aveva, che ci aveva castigato anche in passato, ultimamente insomma qualche piccola comparsa nell'attacco del Bayern Monaco, ma insomma molto a intermittenza, in ogni caso in fase calante. Da Verona, Matteo, buongiorno. buongiorno a Garanzini. Volevo chiederle, ha avuto modo di vedere la partita Hellas Verona e Varese, le due situazioni dell'arbitro Marzi evidenti, evidenziate anche dalla Gazzetta dello Sport per caso? Ma io sì, ho visto qualcosa, ma molto molto così, molto, no, no, no, sì, perché okay. Dove vuole arrivare? Io non ho mai fatto, non sono uno da moviola, Matteo. No, ma infatti io ero anche allo stadio e poi la sera sono riguardato bene a parte le palese trattenute, soprattutto su Ferrari, due azioni di cui una che potrebbe essere con palla lontana trattenuta in area, l'altra da solo davanti al portiere che stava per tirare, atterrato, e chiaramente l'arbitro decide e quindi non si può avere replica. Poi valutando anche la partita Sampdoria e Sassuolo, dove Der coperto dall'arbitro ha evidenziato subito il rigore, e anche la Gazzetta dello Sport ha messo proprio errori fatali, cioè situazioni di arbitraggio che danno un po' il dubbio su almeno personalmente, anche da tifoso comunque ormai rassegnato, però senza togliere al Varese la capacità di gioco, però situazione così evidente di rigore, insomma, ha lasciato parecchio amare in bocca. Beh, questo lo credo, Matteo, e credo anche che tutte e due queste partite meritassero arbitri di un altro livello, meritassero arbitraggi migliori. Questo vale per Verona-Varese, vale ancor più secondo me per Sassuolo-Sampdoria, perché in effetti come l'arbitro a bocca dopo 8 minuti a questo tuffo lì ad Air è davvero abbastanza inquietante. Dopodiché il calcio vive purtroppo anche di queste cose. Il Sassuolo aveva 82 minuti per rimontare, ci è arrivato vicinissimo, l'avrebbe anche meritato, direi anche abbastanza ampiamente meritato. Dopodiché insomma, i verdetti poi alla fine si accettano, non sarà la prima volta e non sarà nemmeno l'ultima che ci sono dei verdetti discutibili. Potrebbe essere invece l'ultima volta che per partite di questa importanza, perché insomma tra restare in B e salire in A c'è una differenza enorme, no, non è soltanto una promozione. Oggi nel calcio esasperatamente drogato dai diritti televisivi, fa una differenza economica fortissima. Forse provare a mobilitare per partite di questo livello, cioè considerarle non più partite di Serie B per salire in A, ma già partite potenzialmente da A, e quindi magari provare a designare arbitri un tantino più esperti, potrebbe essere una soluzione magari a cui pensare per il futuro. Da Brescia, Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno. Dunque io volevo solamente dire che sono assolutamente d'accordo con le parole di Rocca, che l'ho sentito questa mattina per radio, e vorrei chiedere una cosa: non ritiene che la giustizia sportiva sia ormai troppo obsoleta? Cioè ci troviamo in una situazione dove io, reo confesso truffatore, tra 20 mesi sono in campo, mentre invece una persona che non ha la possibilità di difendersi paradossalmente si ritrova a star fuori 3 o 5 anni. In poche parole, io potrei trovare il carobbio di turno in campo fra 20 mesi e devo pure pagare il biglietto per vedere questo personaggio giocare. No, non la costringe nessuno però, No, assolutamente. Io se vedo una partita tra 20 mesi con Carobbio in cartellone, non ci andrei comunque, no? Perché dallo stadio certo. Mi astengo ormai da anni, ma in ogni caso con un Carobbio in cartellone le garantisco che i piedi non ce li porto a maggior ragione, insomma. Quindi abbiamo sempre poi ancora quella difesa lì. Lei è chiaro che pone un altro tipo di problema, io lo condivido, le dirò che lo condivido perché il problema del pentitismo e della collaborazione agli organi di giustizia, è un problema che forse è un tantinello più grande, no? E nasce un po' prima rispetto a questo processo, rispetto alle indagini sul calcio. Quindi credo che vada affrontato in altre sedi e non certamente da me, per esempio. Però è anche vero che certi sconti sono stati, se hanno fatto rizzare i capelli al presidente federale, io immagino che abbiano suscitato sconcerto ad ogni livello. E a questo proposito le propongo Un intervento di Mario Stagliano, che è l'ex vice capo ufficio indagini della FIGC. Sentiamo cosa ne pensa. Dunque, è stato dato un messaggio forte e chiaro da parte del procuratore federale. Collaborate con la giustizia sportiva e in qualche modo la giustizia sportiva ve ne sarà grata. D'altro canto era un messaggio che era già partito dopo quella riunione che ci fu tra il procuratore federale Stefano Palazzi e il procuratore di Bari Laudati. Insegnavano i padri latini che est modus in rebus. Collaborare vuol dire avere degli sconti, di questi sconti ne potranno usufruire anche le società, ma poi ci deve essere un limite. Nel momento in cui la sanzione diventa non afflittiva, direi addirittura irrisoria in qualche caso, e per qualche tesserato e per qualche società, allora poi il tifoso intorno si guarda e dice che cosa è successo, ci avevano garantito severità, ci avevano garantito pene esemplari. Mi pare sia ampiamente condivisibile quello che sostiene questo ex vice capo dell'ufficio indagini della FIGC, Mario Stagliano. Io perlomeno lo condivido in pieno. E allora domanda Marco, Maggio De Santis quanto hanno scommesso sul 3-0 per la Russia? Lo so, infatti ormai è una battuta evidente, ma ormai purtroppo queste battute hanno sempre più diritto di cittadinanza, e questo è molto amaro, non perché Maggio De Santis abbia fatto qualcosa di illecito, sia ben chiaro, ma perché quando vedi errori così marchiani e così apparentemente inspiegabili, sei portato a, cioè qualcuno è portato a pensare alla combine, cosa che invece non è, fa parte soltanto della fallibilità umana, calcistica in questo caso. Francesco da Latina, buongiorno. Sì, buongiorno dottor Garanzini. Ascolti, volevo un'opinione su tre considerazioni. Tre. Io sono tifoso milanista. Volevo sapere, il Milan è così costretto a dover mandare via i suoi top player, visto tutti i senatori che sono andati via e quindi il monte ingaggi che si è abbassato? E poi non è un po' da pazzi mandar via una persona come Thiago Silva e tenersi Pato, vista l'integrità fisica, che poi non è così brillante, insomma. E un'ultima cosa, e poi l'ascolto per radio, e volevo sapere, si è parlato tanto dello scambio Robinho-Ganzo, però non si sente più nulla. Francesco, no. Facciamo così, sentiamo prima come vanno le strade, no? Devo una risposta a Francesco, che aveva chiamato la Latina, ma gliela inoltro da ben più autorevole fonte, perché mi pare che l'argomento grosso modo sia quello. Sentiamo Allegri. Io credo che Thiago Silva, che è un campione, che rispetto a tutti gli altri difensori che ci sono nel mondo è tre spanne sopra, e tecnicamente, tatticamente, perderlo sarebbe una cosa gravissima. Sono convinto che Thiago Silva rimarrà al Milan perché è un campione, perché ce ne sono pochi e perché poi soprattutto non scordiamoci che abbiamo un presidente come Berlusconi che ha l'ambizione e la voglia di tenere il Milan ai massimi livelli. Mi sembra che tre spanne siano tante, con tutto il rispetto per Thiago Silva, che è certamente un grande difensore di statura internazionale ed è un leader difensivo, però tre spanne rispetto a certi difensori che ho in mente mi sembrano tantine. E trovo anche interessante come Allegri, non è la prima volta in questo periodo, stia tirando per la giacchetta letteralmente Berlusconi, no? Non perde occasioni, perché evidentemente ha avuto qualche rassicurazione in contatti diretti e adesso, sia pure, ripeto, indirettamente, sta provando a ricordarli al suo datore di lavoro. Due neopromosse spagnole con discreti quarti di nobiltà, uno è il Deportivo La Coruña principalmente, che ha vinto la Serie B spagnola ed è salito in Liga 1, la Liga vera, e l'altro è il Celta de Vigo, e quindi questo vuol dire che la Galizia ritorna nella geografia del calcio spagnolo che conta. Antonio ha chiamato da Pisa, buongiorno. Buongiorno Gigi, sì. Complimenti come al solito. Ho semplicemente la premessa sulle scommesse è che al disgusto sta seguendo un po' di disappunto per queste prime sentenze, perché sembra quasi che per alcune società le multe combinate siano addirittura inferiori a quelle che vengono date per, che ne so, lancio di carta igienica in campo durante le partite, e mi sembra abbastanza strano. La mia invece era una richiesta per una curiosità che ho da un po' di in base ai regolamenti, non so se può essermi d'aiuto. Facciamo l'esempio del Siena, perché è quello che sembrerebbe più implicato. Nel caso di diciamo così, colpevolezza del Siena e retrocessione del Siena, immagino che sia ripescata la terz'ultima retrocessa quest'anno, no? Però la mia domanda è questa: il Siena, facciamo questo esempio anche se c'è la presunzione di innocenza, il Siena avrebbe commesso illeciti l'anno scorso per vincere il campionato di Serie B e quindi avrebbe, diciamo così, avuto un vantaggio rispetto al, diciamo, alla prima squadra non promossa. Ecco, il vantaggio di salvare la terz'ultima di quest'anno in Serie A invece di dare la Serie A a quella che sarà effettivamente danneggiata. Come lo vede? Lo vedo con un'emicrania, Antonio, che lei non se ne fa un'idea. Cioè, in 20 secondi di casistica, legittima da parte sua, per carità, un'emicrania, non ne ho la più pallida idea, preferisco continuare a non averla mai. E noi, come dire, manteniamo, perché poi sono organi che credo che dipendano, non credo facciano parte di un'organizzazione privata, manteniamo dei funzionari appositamente perché studino questi casi e prendano queste decisioni. Io sinceramente non li invidio, mi limito a riflettere con l'aiuto anche di Franco Piantanini da questo. A proposito dell'intervento dell'ascoltatore di prima, io poi le farò rispondere da Marco Bellinazzo appena possibile, magari già domani nello specifico, ammesso che esista una casistica, ma ammesso soprattutto che esista una giustizia in queste cose, perché poi è chiaro, hai ragione, bisogna risalire, ma oltre un certo punto non si può risalire. Dicevo che sarebbe carino se un giorno si desse ragione alla tesi del professor Monti, e cioè il calcio si fermasse per un determinato periodo di tempo, 2 o 3 anni aveva detto Monti, forse basterebbero 20 mesi per tornare a vedere Carobbio, no? Perché così è, no? Se Carobbio becca 20 mesi, che poi è un anno e mezzo, poco più, forse i tempi di ripristino del calcio, di risanamento del calcio rispetto a quelli quelli anticipati, no, ipotizzati da Monti, potrebbero essere addirittura dimezzati, per avere il piacere di tornare a vedere Carobbio. Salvatore da Salerno, buongiorno. Eccomi, buongiorno direttore. Direttore, de che e di chi? Come? No, de che e di chi, direttore? Come le viene in mente di chiamarmi direttore? Non è il direttore della Ma testata, di nulla, ma... di nulla. Me ne vanto pure, per dica. L'opportunità, Gigi. Prego, prego. Gigi va molto meglio. Ok. Io volevo fare una considerazione, visto che allora ci diamo il nome, diamoci anche del tu. Non esageriamo, Salvatore, dica. Io volevo fare una considerazione con te, che era questa. Sì. Al di là di Buffon, non Buffon, soldi, non soldi, quello che ne fa, quello che non ne fa, non è questo quello che volevo evidenziare. Quello che volevo evidenziare io era il fatto del continuo mortificare da parte di tutti della nostra intelligenza. E mi spiego, voglio dire, se qualcuno dice che se trova chi gli ha comperato il caso, la casa, succede il finimondo. Sì. Se qualcun altro dice se trovo chi mi ha messo 1 milione di euro sul conto corrente, anche lì succede il finimondo. Se qualcun altro per volare deve dire non mi ricordo di essere stato come su quell'aereo, fatto, certo. Su quell'aereo un altro. Voglio dire, ci sta pure che i legali di Buffon dicano che per preservare il patrimonio l'abbia portato al tabaccaio, come se banche, poste o altri istituti non esistessero. La mia mortificazione, la mia intelligenza è continua. Io mi sento proprio meschino quando devo sentire queste cose. Sì. Come è mai possibile che si possano dire guardi, Salvatore, facciamo così. Lei mi ha convinto, diamoci del tu, perché siamo separati alla nascita, coltivando entrambi di questi dubbi, e tra l'altro esattamente quelli che lei ha elencato, sono d'accordo con la sua proposta. Diamoci finalmente del tu. Gianpaolo da Firenze, buongiorno. Salve, buongiorno dottor Garanzini, grazie per la possibilità di intervenire. Volevo chiederle un paio di cose. Allora, la prima, non le pare che Allegri, con le dichiarazioni che ha fatto su Thiago Silva, non si sia sbilanciato troppo in relazione alla sua posizione? E se Thiago Silva fosse venduto, che cosa succederebbe strada facendo? Si scredita Allegri ancor prima di partire? E se non fosse venduto e tutti coloro che premono per dover risistemare all'interno della loro società, vedi figli di Silvio Berlusconi, che premono per risistemare il bilancio, che cosa potrebbero aver da dire? Mi sembra si stia creando una situazione all'interno del Milan, io non sono milanista, ma di pressione politica dall'una parte e dall'altra. La seconda cosa invece da interista che le volevo chiedere in maniera veloce, ho la sensazione che coloro che fanno le scelte all'Inter si stiano nascondendo dietro la necessità di dover rimettere a posto i bilanci per poter dire che hanno scelto dei calciatori non troppo all'altezza. Cioè, finché si sceglie Ibrahimovic piuttosto che qualcun altro è facile, quando si deve andare a scegliere calciatori un po' meno noti tutto diventa più complicato. Ho la vaga sensazione che qualcuno all'Inter, non che non sia bravo, vedi Branca, ma che si siano un attimino distratti. Finisco dicendo, vado a ruota libera. Ma sta andando a ruota libera da un po' però Giampaolo. Quest'ultima pedalata la faccia breve, per cortesia. Brevissimo dicendo, si immagina se Monti invece di dire di fermare il campionato avesse detto di giocare con la primavera per un'annata, forse avrebbe creato qualche problema in più ai vari personaggi del calcio. Ma non era una dichiarazione programmatica quella di Monti, era spiegato lui per primo. Avesse voluto fare una proposta operativa davvero, avrebbe fatto quello, ne avrebbe fatto un'altra. Nessuno pretende, tantomeno io, di dettargli un'agenda in materia, ma era stato lui stesso a premettere che la sua era una considerazione amareggiata e forse anche disgustata, direi ad alta voce. Quanto al resto, soprattutto per quanto riguarda il Milan e l'Inter, dice lei ha detto una cosa tipo si nascondono dietro il fair play. Non è che si nascondono dietro il fair play, è che devono fare i conti col fair play. E dopo 850 milioni di investimenti di una sola persona all'Inter, per esempio, no? Giusto per dirne uno, ho detto 850 milioni di euro. Beh, insomma, forse provare a fare due righe di conti per provare a star dentro a qualche parametro potrebbe non essere, no, della serie non è mai troppo tardi. Matteo Comes in regia, Franco Piantanida in redazione. Vi ricordo lo speciale di Raffaella Calandra dedicato al terremoto drammatico in Emilia, subito dopo il giornale radio. A tempo di sport.